ricorre il terzo, è già ricorso in realtà il terzo anniversario della strage del carcere di Modena, che è avvenuta l'8 marzo 2020, quando stava iniziando il lockdown, appunto, e gli istituti di pena del nostro paese sono, diciamo, andati in rivolta quasi tutti. A Modena però purtroppo 9 persone perdono la vita. Da quel giorno un piccolo gruppo di modenesi si è fatto carico di cercare di capire cosa sia successo veramente, perché purtroppo lo Stato se ne è lavato le mani archiviando le indagini prima su 8 dei 9 morti il primo anno dalla strage del carcere, tutti gli stranieri, poi anche invece archiviando la morte di Salvatore Piscitelli, che era rimasta aperta in virtù del fatto che dei suoi compagni di viaggio e di cella avessero appunto firmato un esposto coraggiosamente che diceva che le cose sulla morte di Salvatore non erano andate come dicevano le istituzioni. Però ora anche le indagini sulla morte di Salvatore sono purtroppo state chiuse. Siamo in attesa della pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dove rimane aperto un fascicolo per l'affare Shoshan, che è il primo dei ragazzi morti nel carcere di Modena, e vediamo cosa succederà. Diciamo che come comitato però ci siamo sempre ripromessi di tenere alta l'attenzione su quella che è stata la strage di Modena, di non dimenticarci questa ferita che sanguina ancora, diciamo, della nostra città, e quest'anno appunto abbiamo optato per una 2 giorni in cui la prima è molto in stile comitato, quindi faremo una piazza di arte anticarceraria, allestiremo una cella del 41 bis, così le persone potranno vedere cosa vuol dire essere rinchiusi lì dentro. Saremo quindi in piazza Matteotti sabato dalle ore 14, poi alla sera ci spostiamo alle 18:30, ci spostiamo allo spazio sociale Libera, dove faremo la presentazione della piattaforma nazionale Morire di Pena. Tra gli altri ci saranno anche Bergonzoni e Flavio Rossi Albertini, l'avvocato di Alfredo. Dopodiché cena sociale, concerti e DJ set, quindi insomma cerchiamo di fare un po' di benefit per il neonato sportello per i detenuti e le detenute che abbiamo appunto creato a Modena. Il giorno dopo invece abbiamo deciso di farla più politica, quindi di fare in modo che, grazie alla lotta di Alfredo, al fatto che di carcere finalmente si parli, si riesca a fare il salto politico, no, di qualità, diciamo, e quindi abbiamo azzardato di lanciare questo corteo appunto che ha preso un respiro nazionale, quindi insomma siamo molto contenti. Ci troviamo alle 14 alla stazione delle Corriere di Modena, quindi in piazzale Primo Maggio, poi il corteo si svilupperà e arriverà fino al carcere, dove porteremo i saluti alle detenute e ai detenuti. Dopodiché ritorneremo indietro fino alla stazione dei treni e quindi vi riaccompagniamo verso casa, mettiamola così. Ovviamente tu hai citato la questione dei morti in seguito alle rivolte, la vicenda di Alfredo Cospito, ma il 2022 è stato un anno record purtroppo anche per i suicidi in carcere. Sì, esatto, tra l'altro nel carcere di Modena è morto un ragazzo anche 2 settimane fa, pare un suicidio, nel senso purtroppo chiaramente vengono molti vengono derubricati così, di fatto anche le morti dell'8 marzo 2020 sono state derubricate, no, un suicidio collettivo fondamentalmente. Quindi sì, in realtà i 4 punti su cui convochiamo il corteo sono appunto le condizioni delle nostre carceri, che è quella appunto che hai appena detto tu, che mette in luce il fatto che di carcere si muoia tutti i giorni. Il 2022 è stato un anno tragico appunto per i suicidi. Dopodiché c'è la questione dell'abolizione del 41 bis dell'ergastolo, per cui Alfredo ci sta mettendo la sua vita e la sua salute, quindi insomma saremo in solidarietà ad Alfredo e sosterremo questa lotta che lui sta portando coraggiosamente avanti. Per avere verità e giustizia per le morti, per le 14 morti delle rivolte, di cui 9 appunto nel carcere di Modena, ma anche per evitare, diciamo, cercare di far capire che l'uso creativo della legge che va a punire le lotte sociali non ci sta bene, perché Modena è una città in cui l'uso creativo della legge e quello che succede nei tribunali è abbastanza bizzarro. Questo è molto collegato in realtà col fatto che appunto 9 persone perdono la vita nel nostro carcere, eppure nessuno ne paga le conseguenze, eppure nessuno indaga, eccetera eccetera, e quindi insomma diciamo che anche il punto sulla repressione ci sembrava necessario legarlo a tutta la lotta anticarceraria che stiamo portando avanti. Da quando si è insediato questo governo, prima col decreto rave e poi adesso con anche altre misure, diciamo che la strada è quella di inasprire ancora di più la repressione. Io l'ho sempre detto che comunque con questo governo non sarebbe probabilmente cambiato niente da un punto di vista sociale, se non la repressione, cioè di quella chiaramente ce lo dovevamo aspettare, perché Modena ha sempre avuto una repressione forte, sia chiaro, cioè abbiamo dei processi folli per cui persone che hanno srotolato uno striscione vengono trascinate in tribunale, insomma abbiamo il maxi processi Talpizza, ricordiamocelo, di più di 400 denunce per uno sciopero dei lavoratori, quindi Modena è un territorio che la repressione l'ha sempre vissuta in modo palpabile. Vero è che ora questo governo non deve neanche fare finta di essere liberale, no? Però insomma la lotta è sempre la stessa, la parte è sempre la stessa e andiamo avanti, e forse chissà, proprio perché sia questo governo di fronte, magari qualcuno gli occhi li apre stavolta, quindi proviamo.